Il 13 gennaio del 1992 il matrimonio fra Mia Farrow e Woody Allen andò in fumo. Vivevano in appartamenti separati, lei è andata da lui per leggere un libro, poi si sono anche sentiti al telefono e quando stava per uscire Mia ha improvvisamente notato sulla mensola del camino un mazzetto di foto Polaroid. Sulle prime le ha prese per foto pornografiche, sì, foto pornografiche qualsiasi. Poi si è accorta che la fanciulla ivi ritratta, in pose che qualche tempo fa sarebbero state definite immodeste, la fanciulla era sua figlia adottiva Son Yi. Da lì il drammatico interrogatorio del marito, che sulle prime ha pensato di difendersi dicendo che la ragazza aveva avuto bisogno di fiducia, che lui aveva provveduto in tal senso e che la vicenda andava considerata in chiave positiva. Una chiave positiva che in quanto tale a Mia Farrow è sfuggita. Ai modi più opportuni di categorizzare la vicenda poi ci hanno pensato avvocati e magistrati. Non mi sarei mai fidato di qualcuno che consulta il proprio psicanalista tutte le mattine, ma Mia Farrow non deve aver speso granché della propria vita a riflettere sui fondamenti metodologici delle discipline presuntamente a cavallo fra scienze umane e scienze naturalistiche. Il suo matrimonio durava quindi da un pezzo e occhio e croce le ci è voluto qualcosa come una decina d'anni per mettere al posto giusto alcune tessere nel mosaico della sua vita sentimentale. Per esempio, quando si è sposata con Woody Allen, come capita ai comuni mortali e dunque anche alle stelle del cinema, ha dovuto sistemarsi una spazzola, una saponetta e lo shampoo, probabilmente anche altro, nell'armadietto sopra il lavandino. Bene, nel farlo si è accorta che nell'armadietto spazzola, saponette, shampoo e probabilmente anche qualcos'altro c'erano già. Erano quelli di Diane Keaton, la compagna precedente di Allen, che li aveva conservati accuratamente. Un altro esempio, altra tessera del medesimo mosaico da sistemare. Allen non ha mai mangiato alcunché di preparato da Mia, mai, in tutti gli anni del loro matrimonio. E non solo, non ha mai usato un solo piatto, non ha mai usato una sola posata della sua cucina, perché lei viveva con dei gatti e lui a quanto pare sosteneva che i gatti potessero contaminare tutto. La mania igienistica di Woody Allen mi porta dritto dritto all'ultimo esempio. Lei compra una casa al mare, no? E si dà da fare per arredarla. A cose fatte arriva lui e vabbè, prima o poi vuol farsi una doccia. Tira fuori dalla valigia un suo tappetino bianco di gomma in modo che i suoi piedini non tocchino superfici già toccate da altri e si avvia. Ne torna sconvolto. Dice che l'indomani mattina se ne dovrà andare perché lo scarico della doccia è al centro del piatto e non sul lato. Lei, poverina, dice di non capire, io sì, lei non capisce e lui non è di quelli che si perdono in lunghe spiegazioni allorché da queste soprattutto avrebbero tutto da perdere. Le chiavi? cose di questo genere Mia Farrow le racconta in Quel che si perde, sue memorie pubblicate nel 1997, quando lo scandalo del rapporto fra Woody Allen e sua figlia adottiva Sun Yi era ancora fresco nella memoria popolare. Complessivamente queste sue memorie, diciamo che sono un bel esempio di come funzionano certe cose. Il matrimonio ovviamente era tutto rose e fiori, un imperituro inno all'amore. Tranne per l'appunto per quei piccoli particolari. Scambiarsi effusioni con uno che si lava le mani subito dopo averti toccato e che ti segue con il lisofornio per disinfettare dove sei passato è dura. Anche essere certi, ma proprio certi di essere la donna amata quando si conserva le cose di un'altra donna amata in precedenza, è dura. Voglio dire che la ricostruzione storica delle proprie vicende matrimoniali da parte di Mia Farrow, come spesso capita nelle ricostruzioni storiche in genere, induce a qualche sospetto. Quel che chiama dopo, quando scrive a testimonianza della nefandezza del marito, era testimonianza della medesima nefandezza anche prima. Il fatto di scriverla dopo, questa sua storia, tutta insieme, ancora calda e ben circoscritta, le consente la disseminazione di indizi sulla colpevolezza del marito, scopo primario della sua fatica, ma evidentemente quegli stessi indizi al momento opportuno non avevano significato alcunché per lei. È il caso di chi preferisce darsi la zappa sui propri piedi per essere sicuro di colpire le gambe dell'altro. Il quadro psicopatologico di Woody Allen comprende qualcosa che va al di là, no, della morbosità igienista. In una sua dichiarazione di poetica dice che i suoi film descrivono la Nuova York dei suoi sogni e dei suoi desideri, a volte anche quella dei suoi ricordi. E aggiunge che lui vive in una zona circoscritta, in una sua isola, ed è soltanto lì che si sente sicuro. Ecco così non solo si capisce bene la consultazione quotidiana con lo psicanalista, ma si capisce anche quella consultazione ancor più costante, meno consapevole, magari dimenticata via via nei suoi anni, con la cultura di cui è un risultato come persona e come regista cinematografico. In quel tappetino bianco di gomma che si porta dietro perfino per lavarsi nella doccia della moglie, insomma, non sta soltanto la garanzia dell'immunità dai germi più patogeni, ma sta anche la garanzia dell'impenetrabilità della propria sfera personale e intellettuale. Che poi la doccia con lo scarico centrale non andasse bene è evidente. Se Mia Farrow avesse avuto un minimo di interesse per lui, doveva saperlo. Se è centrale lo scarico viene coperto dal tappetino e l'acqua non scorre via. I germi più patogeni, quelli più patogeni, allora in agguato sul fondo vengono su fino ai piedi del povero Allen. E dai piedi prendono inesorabilmente a salire. Mia Farrow avrebbe dovuto saperlo. Se poi, più che interesse per lui, l'avesse amato davvero, Avrebbe fatto meglio a chiamare subito la Croce Verde.